Attenzione 10 per un controllo urgente. Attenzione 10. Attenzione 10 per una prova urgente. Hola. Attenzione 10 per una prova urgente. Che? Ragazza, tu avrò un'ora che ti chiamo, ti ho sentito, ti seguo e fuggi. Un attimo, stavo cercando di collegare il cavo di questo microfono. Come sto uscendo? Ehi, hey, adesso ti sento bene. Non ti ho capito se non ci parlo più con te. C'ha mille chiappe. Guardiamo un attimino, se aumento il metro tutta la canna, com'è? Non buono, non sono così. Bene. Sì, adesso non sei con problemi, ma ti sento qua abbastanza bene. Abbastanza, guarda, c'ho la possibilità di aprire un po' di più la LC. Prova. Un attimino che attacco, voglio vedere anche come esco così, aspetta. Perché che urgenza, telefono pure prof. Dici? Dimmi. Allora, sto parlando con il 50, aspettati, che comunque. Attenzione, Grodi, mi ascolti? Meglio di prima. Oh, gatto, mica, ti ho riparato. Ci avrò buttato 30-40 ore sopra, ma che cazzo, sperando che proseguo. NFM. Aspetta, che devo cercare che sta buttato. Che cos'è l'8.50 questo? L'8.50? Ma dimmi tu, cazzo, avevo perso ogni speranza. Avevo trovato una scheda RF negli Stati Uniti, l'avevo già ordinata. Però me l'avevo pagata e tu gli scrivo che gliela annullo. Cazzo, anche oggi mezzanotte ancora qua, però probabilmente abbiamo risolto il problema. Risolvito, si dice. La modulazione buona, esagerata oppure sempre bassa? Buona, mi piace. Va bene, lasciala così, dai. Cazzo, abituato come ti stavo sentendo ultimamente, facevo molta difficoltà. Un attimino che provo a alzare un attimo. Solleva. Innanzitutto questa qua è un attimino con un segnale diverso. Con un po' di valvole. Guarda un po'. Ma non sollevare che stai iniziando a innescare. No, negativo, cosa hai detto? Stai innescando. Da così, ora. C'è sempre due sotto. Da così, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Nescando. Bravo, lascia così, non tocca nulla. Indicazione come buona? Sì, va bene, non è che sia quella che piace a me, ma va bene. In confronto a come sta uscendo gli altri giorni, va meglio. Va bene, dai. Aspetta un attimino, sei stato mezzanotte, fai mezzanotte 5 e un attimino tiro la LC 2 secondi. Non ho un problema, infatti sto pensando, adesso non so da cazzo fare, se chiuderlo stanotte o lasciarlo aperto e usarlo, adesso è tutto a petto, sto smontato, vuoi vedere un po' se richiuderlo. Cazzo, proprio non ho perso ogni speranza, ho detto, poi stanotte finisco, aspetto che arrivi l'oscilloscopio e mi faccio i controlli, mi seguo la traccia, se no, se non ce la faccio meno così, perché se cosa è successo, adesso, poi alla fine cambio un transistorio, cambia l'altro, ma vaffanculo. Adesso l'ho buttato al cesso col Proxel e ci sta mettendo questo è l'M93 della ZG. Ecco, così dovrebbe essere a tutta canna anche la valvola, guarda un po'. Cazzo, sei barattoloso, un bel barattoloso. Sono barattoloso rispetto a prima oppure anche prima ero barattoloso? Prima di meno. Sì, aspetta un attimino che proviamo a fare un esperimento. Allora, così mi ha detto che innesca, guarda, ora. Adesso forse no. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, ma è sempre barattolosa? Sì, e poi alla fine c'è questo in piccolo innesco. Scendo un attimino, adesso ti apro la LC un attimo. Io mi sono preso finalmente l'antinduttivo, quindi non ci dovrebbero essere problemi adesso. Già? Quindi è antinduttivo. Serve un cazzo, E quando stai girando il trimmer puoi rimanere col cacciavite inserito, non ti crea problemi. Tutto in plastica. Ma c'è una linguetta, quello dei telecomandi, Serve un cazzo, c'è anche io, mi c'ho qui di fronte, ci vuole quello tutto completamente in plastica e anche quello comunque tende a darti qualche minimo problema, soprattutto quando fai le canature, un giorno mi viene a casa te lo faccio vedere, come te lo metto il telescopio come cambiano i valori. Ma per quello che stai facendo va bene, per carità, Sempre quando devi tarare media frequenza, roba del genere, no? Diventa ogni volta una roba, un giorno te lo faccio vedere. No, ho aperto la scopa, mi era scappata. Guarda così, di più o di meno. Credo che cambia molto. Guarda così, ola ola ola. Io non sento grosse differenze, pure ci ho attaccato altoparlante supplementare. Guarda, ogni tanto mi scappa, Guarda, così gli ho fatto fare mezzo giro. Non sento nessuna differenza. No, aspetta, metto anche lì in tutta canna, che dovrebbe essere così, mi ha detto che così innescava. Non lo stai innescando. Ma così, ola ola ola? Ah, io l'avrei lasciato così. Così? Chi è? Manto, ciao Fabri. Gianluca. No, aspetta che sollevo. Aspetta che lo faccio presa, aspetta. Ora. Alessandro, aspetta. Oh, così mi sente meglio. Sandro da Alghero. Sì, allora. Sandro. Ah, tu. Non mi sembra Sandro, chi sei? Sei Sandro, Luca sto. Tu vedi che c'è Luca. Ciao lui, dove sei al porto? Sono negativo a casa, sono adesso, col baracchinetto. Buonasera anche a Fabrizio. Lascialo così che io da lontano lo sento meglio qua, che come certe volte sembrava che si stavi anche allontanando come la cosa di frequenza, forse stavi spostando, non so se stavi giocando la stessa cosa. Comunque adesso è bella la radio, è piena, capito? Roger, ma è anche amplificata? Anche un po' amplificata, sì. È la tua voce quella grande che riconosco di verticale, è la tua voce, te l'ho detto. Il tuo nome non lo devi educare, almeno per me, io qui ti sto ascoltando, per me vai bene. Ma secondo me si può aprire un po' di più la LC però. Adesso hai fatto qualche cosa, ho salutato al microfono. Cattivo, non ho fatto niente. Perché aprire la LC? Cosa vuoi fare? Aprire, aumentare di raggio la M? Ma guarda, adesso si è aumentato. No, è lo stesso, però queste cose qua, il microfono tiene sempre normale, la voce è sempre uguale, oppure anche a partire la voce dal tono, la cosa fai? Ma così, guarda un po' adesso, no, sto tenendo sempre la stessa distanza e sto muovendo solamente il trimmer della LC. Torna indietro. Ma così, 1, 2, 3. Così lo dovresti lasciare, dopo Fabrizio magari lì vicino a te magari non nota differenza, capito? Perché magari siete troppo vicini. Va bene, guarda, 1, 2, 3. Ma adesso stai tremolando, sta tremolando la modulazione. Roger, guarda un attimino adesso, ola, 1, 2, 3, prova. Lascialo così, va bene, io sto molto bene qua a distanza. Anche io, Anton, lascio così, veramente, per come ti sto sentendo ultimamente, se non sto scherzando, però adesso va bene, nemmeno a paragone, guarda, lascio così, sto uscendo bene. Abbiamo il microfono, quindi adesso lascio tutto così, mi confermate? Sì, così che quando entri ci parlo. Molto bene qua, siamo a distanza. Cos'è il proxy? Negativo, l'M93 della ZG. Lascialo così, va bene, non stai innescando niente, buona la modulazione, va bene. A dirò, dai, vi do retta e chiudo tutto. Gianlu, come mi stai ascoltando? Alla 100%, bellissimo, potente. Va bene, dai. Forse grotte ce l'abbiamo fatta, chissà che resista, No, è l'850, quello che mi aveva ammazzato il fulmine, con quel temporale di quasi 10 giorni fa che mi aveva fatto saltare il ricevitore. Cosa ti ha rotto il diodo della ricezione? Sì, non è questione di diodo di ricezione, aveva fatto un po' di roba, considera che sarà una cosa e l'altra, che non è che ne faccio ogni giorno, ma io so solo, forse però te se ne rende conto che ogni volta che sono qua, tu considera che ci ho buttato 30-40 ore sopra, adesso avevo quasi deciso di mollarlo, l'ultimo tentativo dove arrivano tutte le alimentazioni alle varie sezioni della scheda, e sono riuscito a farla andare, ha cambiato un po' di roba, un po' due effetti, un po' di roba, comunque va bene ora. Ottimo, veramente, va benissimo. Comunque, l'ultima volta, se mi ricapita lo mando su bocca, non si può, ho gli occhi in fiamme, queste cazzo di schede con questa tecnologia SMT non si può, cazzo, cioè quando devi trovare un punto per controllare l'attenzione ci vuole un quarto d'ora per guardare uno schema, l'altro, e trovare il punto lì, tutti i miei affetti nei cerocci, non è possibile, cazzo, è una cosa, uno c'è esperienza che se dove toccare tu, se no esci di testa. Scusate che mi sto chiedendo il coso, lo spinotto un attimo. Yeah, ma non c'è lo sciroppo per il tuo fatto? Come? Io? Arriva domani o dopo, mi arriva l'oscilloscopio nuovo, mi arriva domani o dopo, capito? C'è altre apparecchiature, ma quello pure mi arriva domani o dopo. Infatti ho detto se... anzi, adesso voglio fargli un controllino col frequenzimetro perché dovrebbe darmi una frequenza su un punto e poco fa non me la dava. Adesso ho cambiato un'altra cosa e si è aperto il ricevitore e ha ripreso a funzionare, però adesso lo controllo per curiosità. Perfetto. Ecco, quello lì almeno si aiuta tantissimo. Invece in quella maniera magari, come l'hai cercato tu, di fare a uno a uno. No, un po' mi ha aiutato il generatore che ho col frequenzimetro un po' seguito e un po' sono riuscito, mi ha aiutato, però adesso ho ordinato questo nuovo apparecchio e così più o meno non mi manca più niente, c'ho tutto per poter fare questi apparecchi. L'unica cosa che mi manca è l'analizzatore di spettro, ma forse lo compro come lo trovo prossimo mese, fine, come lo trovo, se trovo l'affare giusto lo compro, mi manca solo quello, una volta che ho quello ho tutto, dai, posso fare qualsiasi cosa. Basso di radio, sì, Gianluca. Va bene, è buono, buono, buono. invece a te Gianluca, come ti sta arrivando? Aspetta un attimo tu. Hola, hola, Antonio. Capa, dimmi Gianlu. Ecco, ti stavo, scusa, schiaccia senza modulare, che non stavo guardando lo strumento. Sei a 8. Provo a accordare. Cosa ti dice adesso? Guarda un po'. 8.5, 6, positivo, capito? Picchi positivi. La radio 5. La radio va benissimo, non la toccare. La tocco, non la tocco. La ola, ola. E allora Fabrice, ma stasera c'è stato QSO? Sì, però fino a non tardissimo, dai. Io sento ultimamente, in questi ultimi, da quando è una settimana fa, quando è successo, però che lavoro, fa parecchio, quindi si è bruciato la radio, io praticamente ogni ora che ero a casa vi ascoltavo, ma ero qui che stavo operando, cioè non pensavo, e quindi sto ascoltando molto in questo periodo, non mi veniva mai a entrare, già lo sai che quando ti stai concentrando e poi quando sei in bagno, certo non vuoi essere rotto di balle. Pagava, ma scusa, come hai fatto a... Ma c'hai il coso, il saldatore d'aria ti sei preso? No, c'è una stazione saldante abbastanza discreta, dai, è quella classica, credo che prima si dava molto, adesso magari è un po' facciata, però con la punta fina riesco a farle queste saldature, solo che riesco a farle, non c'è problema. Senza problemi, capito? Anche il pista non ho rubinato niente, tutto quanto, l'unica è dove c'è l'ingresso dell'RF, lì ho dovuto anche tre resistenze normali, e lì una pista, un contatto di qualche millimetro la leggermente, ma non si vede niente, ho cambiato tre resistenze, un condensatore, due fette, quattro gozzi, no? Sì, boh, ma veramente, non so, dicendo veramente, non è possibile, cazzo, cioè, devo alimentare i cicchi, insomma, solamente, il problema qual è? Non è alimentare i cicchi, il problema è che ogni volta che ti devi trovare un punto su questa scheda qua, che è su tre tratti praticamente, alla fine, che ti devi trovare un punto, devi prima cercartelo sullo schema, poi devi andare sullo schema, quello fotocopiato, proprio lo schema non funzionava e quindi devi trovare il punto, poi devi andare a cercare lui, mettere il puntale, controllare, cazzo, volevo che per un controllo ci vuole un quarto d'ora, capito? È una cosa pazzesca. Ma che prego? Avanti Sandro. Ah, buonasera. Oh. Allora. Carlini, Fabio. No, me, adesso aspetta che ti faccio una chiamata con la radio, se trovo una VP, aspetta, e mi dici come sto arrivando lì al nero. Andrei tutto bene? Ah, Roger, tutto bene, oggi ero in trasferta a sera, però ho sentito poco traffico e ho sentito solo un po' di gente mentre tornavo giù, mi hanno fatto compagnia fino alla ghiera. Roger, perché non ti sei fatto sentire? Perché sono dovuto salire d'urgenza, non era pianificato per far ripartire un'azienda. Abbiamo avuto un sacco di problemi, un lavoro che era finito in 2 ore, alla fine ci ho messo 3 ore e mezzo, quando è finito non vedevo l'ora di tornarmene a casa. Ma guarda che sabato e domenica sono lì, quindi ci vediamo. A Paroge, sì signore, non prevedo di essere da nessuna parte in particolare, quindi sì, vado a sentire se vieni qua. Anzi, ha fatto bene a dirmelo, perché io di solito... Occasionalmente spengo il telefono, faccio in modo di rimanere reperibile. Non voleva essere una minaccia, e sono lì per lavorare perché c'è una festa per bambini, una cosa un po' particolare, e quindi dovrò essere lì. A proposito, vabbè, quel coso è morto del tutto. L'avevi letto, sì, tutto il riepilogo che ti avevo mandato, poi aspettavo notizie, ma non ci siamo più incrociati. Perdonami, a grandi linee, che sapevo che era in buone mani, quindi non mi preoccupavo più di tanto. Ah no, quello sì, solo che è stato riposto in scatola perché dovevo avere qualche informazione da te. Visto cosa dicono su internet, nei forum, chi ha avuto lo stesso problema, che questo e quello, è un pochino di cose. Ho fatto fatto sta che alla fine gira che siano quelli, cioè tutti i componenti che ti hanno dato sembra che siano comunque difettati. Oh, a meno che il problema non sia da qualsiasi altra parte, ma è un casino trovarlo. Tu mi dici che la cosa migliore è quella di aprire un cesso e buttarcelo dentro e saltarci sopra. Oddio, salva lo chassis e mettici dentro un'altra cosa che ho trovato io, che avevo mandato a suo tempo a Fabrizio, che mi sono comprato con 25 euro, 30 ampere, e lo butti dentro e sfrutti gli strumenti e la strumentazione, solo che non è regolabile. Quello che abbiamo preso insieme a Fabrizio è regolabile, c'è un trimmer di regolazione, come anzi. Io è proprio quello, dai, è quello lui, ne abbiamo preso un po', sa come mi stai ascoltando. Bene, appena meno amplificato di prima. Ascolta, questo è l'OP50, eh. Ah, dimmi la verità, hai risolto, bravo. Adesso, dall'altro giorno mi hai sentito che ho iniziato ad operarlo, che sono rientrato, si è messo in giorno temporale e ci sono ogni sera attaccato, 4-5 euro ogni sera, adesso ho terminato di ripararlo, quindi non pensavo di farcela. Tu considera che avevo già ordinato una scheda degli Stati Uniti a seconda mano, una scheda RF, ero disperato tutte queste ore e non riuscivo proprio a cavarne in piedi. Tentativo, poi mollavo così ragionare, e infatti adesso lo sto provando, mi sa tanto, non l'ho ancora pagato, l'ho acquistata proprio 3-4 ore fa, quando adesso gli scrivo e gli dico di annullare la transazione. Ah, quindi stavi perdendo l'esperienza e ti ripreso la scheda. Cazzo, da quel giorno lì, già te lo ricordi, che ogni sera sono lì, poi ho fermato 4-5 giorni, 3-4 giorni, perché stavo aspettando due fette, i primi dalla catena, e sono arrivati quelli, poi non arriva l'alimentazione ai vari stadi eccetera eccetera, finché poi alla fine piano piano che ci sbatti la testa, solo come diceva il Grode, non si può, se non hai esperienza ci perdi, invece di farla adesso in 3-4 ore ci metti 40 ore, poi ti tenescono gli occhi a cercare il punto sulla scheda, una volta che trovi il punto sullo schema, ritrovarlo su questa scheda, quel punto giusto, così eccetera eccetera, è una cosa impressionante, assurda, è tutto troppo miniaturizzato, non trovi i componenti, non trovi niente. Cavolo. Comunque complimenti, perlomeno, per il segnale è perfetto, stabile, con dei leggerissimi picchi positivi, niente di negativo, va benissimo, sei meno amplificato rispetto alla prima prova che hai fatto con l'apparato che stai usando prima, ma magari non hai l'interesse di averti di più. E quindi ok, allora, confermato? Sì, ma guarda, adesso ho sollevato un altro po', non so se sto esagerando, ma questo ovviamente non può uscire come l'altro, non puoi pretendere la radio del 440, eh? Così sei perfetto, farò, andrà bene. Sandro? No. Papà, piccolino sei? No, sono sceso. Sì. Ok, dai, va bene. Cosa è successo? Dimmi una cosa, ma la domanda l'hai consegnata? No, niente, non so di cosa stiamo parlando. La domanda giù per Cagliari. No, niente di niente. Sono perso come i tempi, mi sono perso qualcosa. Ma negativo, non è per quella cosa che ti avevo detto, ma è il coso diretto per andare a fare l'esame. No, non ho presentato niente perché mi sto perdendo i tempi a tutti gli effetti. Non sto realizzando, è il mese prossimo che danno, cosa ci pone previsto? Credo di sì, Fabri, quando è il mese prossimo? Credo che sia il mese prossimo. Oddio, ascolta, niente, che faccio? Chiamo giù, mi faccio dire come e mi sa che la presento. Nome te lo posso dire io perché sono l'ultimo in ordine cronologico a farlo, devi compilare la domanda, devi dargli due foto, mandargli quindi la domanda, le due foto di cui una autenticata e poi un documento di identità fotocopiato fronte e retro con una marca da bollo legata alla domanda stessa. Ah, e più la tassa d'esame che è 25 euro. Ho fatto una cosa, il modulo dov'è per la domanda? Lo scarico da lì dal sito? Come l'ha dato Fabrizio? parli. Sigue scendo, non so come andrà a finire, ma scendo, cacchio, perché se mi dispiace, se mi sta mostrando un pazzo mi dispiace, la verità, cacchio, minchia, anche perché alle volte se fanno una ticchiera, E allora, come dire, scendiamo a fare brutta figura, per me sarebbe la prima, quindi non ci perdo molto. Visto che me la... data questa cosa, grazie, ne approfitto a recuperarmi il modulo e gliela mando, può da perdere, tanto la data 1 ce ne sarà di esame, non penso che ce la sarà più di uno. No, ce n'è uno, il grande sarebbe se scende adesso Brod, se la facciamo, io siamo in tre, magari devo passare a trovare Roberto Quadrato, una persona in gamba, non sarebbe male scendere in quattro. Ci mettiamo tutti vicino, dico due cose, io anche lo guardo da fatto, ci mettiamo lì, non ci scriviamo ogni domanda, alla fine si scrive tutto, e poi tanto all'inizio sono molto come sempre, poi si allena la tensione, uno esce, l'altro entra, e quindi ci si può anche chiacchierare, io nessuna, tu ne c'è l'altra, e ci si riesce anche a chiacchierare senza nessun problema, consegnare il proprio all'ultimo. Aspettina. L'importante è una cosa, da parte mia, non mi sopravvalutate perché io scendo giù notevolmente ignorante. Mi organizzo, faccio un tour de force in questo mese, a questo punto, però non stupitevi di qualche mancanza che potrò avere, però me la tengo, sì. Adesso vedo di pianificare già con la 50, l'avviso bene bene in anticipo. Non so, ma io lo stesso...100 quindi insieme, eravate grupponi? No, eravamo un gruppo, no, il 100% l'hanno bruciato, capito? Non è passato nemmeno uno l'ultima volta, in quel senso lì. E quanti sa quanti eravate? No, non ricordo, si è andato una trentina. Cavolaccio, è proprio una... cioè, non è un interesse che la gente... Fai dalla tassa, fa traffico, invoglia altre persone, ma che cavolo di roba. Ecco, io ripeto, sono 20, 26 anni in radio, utili per la domanda quasi 20, quindi vediamo un attimino, ma andando per me sarebbe la mia prima brutta figura, però almeno ho l'esperienza di aver assistito su come funziona. Se poi scendiamo giù con un certo di pericchitti, magari vediamo un po'. Quindi vediamo un po', non so se il problema è che ci sono domande un po' strane che stanno facendo, non so, spero che questa volta sia più semplice, perché non è possibile andare avanti con il gruppo. Mi dispiace anche perché c'è, qui è una questione di fare molte volte. Poi la mattina non la conosco, per carità. Dovrebbe essere quello che di conosce un po' la materia, le notizie, che una cosa, quattro volte, cioè, io penso che si richiedano due cose, non si è in grado di rispondere, un circuito, un collo, cazzo, cioè un problema le dico uno schema, e metterci le mani su una KF, bene o male, cazzo, anche se lo conosci, di metterlo a posto, riparo, e quindi si girerebbe le balle, se vedi che pure brutte figure che magari non passi l'esame, Infatti, vedi, se della serie abbiamo la praticità di fare effettivamente quello che fa un radioamatore e poi andiamo a fare l'esame, come dire, un autista o prodetto soprattutto va a farsi l'esame di teoria della patente di guida, lo bocciano. E infatti, capito, voi, quindi, certo, voglio dire, non lo so, comunque, vediamo, non ci rispiriamo, no. Perché mi volevo andare a darlo fuori, io perché, non perché più sempre, perché è più normale qui, pare che non vogliamo più far passare nessuno. Speriamo che questa volta, in questa sezione, si mettano un attimino e facciano un po' come da tutte le altre parti, capito? Se no diventa catastrofico. E tu, Gianluca, ci vieni a dare l'esame? Ma ci deve preparare, Fabrizio. Mi devono dare tutte le cose per i libri con i quinti, che c'ho un amico io lì, che c'è da tanti anni oramai, è un collega di lavoro tra l'altro, e mi deve far dare un po' di roba. Ah, è un mezzo un casino, ma cazzo, bisogna studiare proprio questa telegrafia che per esempio a me non mi servirebbe, però non lo so. No, la telegrafia non ce ne vuole più, non ce ne vuole più studiare ormai. La telegrafia è morta, non c'è più telegrafia. Bisogna studiare le normative, e soprattutto è vasto il programma. Radiotecnica, soprattutto radiotecnica, cazzo, radiotecnica, porca puttana, la chiedo, cosa cazzo gli devo dire, cazzo, c'è già in orbita il baffico, il gioco, però ci fanno quattro domande, cazzo, vado in strada, io poi il programma. Dalla memoria, io tutt'oggi dopo tanti anni che riparo, che faccio, che gioco, ancora oggi quando devo prendere un valore me lo devo guardare, adesso con queste cose, con le fasi, con tutti i sistemi che ci sono, mi chiedo un attimo ai valori, polarizzazioni, calcio e via, cosa che prima era più complicato, io ricordo che non c'ho memoria, quindi ogni io per queste cose adesso perché faccio un esempio, sto preparando questa radio, mi guardavo lo schema, prendevo un valore, andavo a cercarmelo sulla scheda, lo guardavo, mettevo i puntali, poi dovevo rigirarmi per riguardarmi il valore perché me l'ho già dimenticato, cioè ho detto tutto, qual è la mia memoria, certe cose, capito? Però io penso, io veramente io sarei più del parere che magari avrei fatto più norme oppure regole o comunque sia studiare, approfondire magari degli argomenti della radio, come magari anche il modo importante del comportamento, diciamo così, il gergo di queste cose qua, però è di tecnica, lo stesso di radiotecnica ha permesso delle cose abbastanza più, come dire, più basilari, ecco, senza scendere e approfondire in alcuni argomenti, perché dopo dico, ma che cosa mi stanno facendo, me lo devo riparare. Il sistema di cosa funziona, come non funziona, cioè queste cose qua, ma dopo un certo senso almeno per noi, ma io non mica ci devo lavorare, che devo sapere per file per segno che cos'è un dio, cos'è una resistenza, cosa serve, cosa non serve. Io sinceramente per prendere la patente o comunque per avere una licenza di radiotrasmettitore non vedo una cosa del come prendere la patente della macchina, vuole davvero un pistone, gli devi dare, ma se non si ferma la macchina io gioco un meccanico, cioè non lo so io se quando possa essere utile una cosa del genere. Non lo so, però è così, perché segue qui il discorso. Io con la macchina lo stesso, prima di non male un problema di fermarmi davanti al campotto, oggi con tutta l'elettronica che c'è, chiami e via. Su una radio un po' diverso, perché comunque l'elevatore era nato come studio, sperimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo è venuto a mancare. Anche perché oggi, sinceramente, se metti le mani su una radio ti spaventi cosa c'è dentro, non riesci più a farci niente perché è tutto SMD, micro tecnologia, tutto compatto, ormai è sempre più difficile lavorarci, io credo anche chi le ripara escluso qualche richiamo che hanno, qualche cosa, se no poi alla fine cambiano la maschera direttamente. È sempre più difficile metterci in mano, mentre prima le radio le riparavi, le costruivi, anche facevi, eccetera, eccetera, eccetera, oggi è sempre più difficile, però è lo spirito radioattore quello. Quello è vero, no, ma prima era molto migliore, proprio come dici tu, a parte che li vedevi proprio i componenti e sapevi distinguere un diodo da una resistenza o insomma e qualsiasi altra cosa. Adesso come hai detto tu, questi, a parte il finale, a parte qualche altro condensatore, via dicendo, sono tutti micro componenti, piccolissimi come nei telefonini, proprio puramente si deve vedere cosa avevo scritto. Ma come ti fai? Ma, guarda, sì, conviene cambiare la scheda, secondo che cos'è conviene cambiare la scheda? Aspetta, scusa che c'è il canale, che sto parlando con un microfono appellare che mi serve quando lavoro qua sulle radio. Aspetta, ecco qua, no, ti dicevo, sì, tu hai ragione, però non so, fanno anche quelle si riparano. Io considero anche questo T50 che mi è entrato, un giro di coso di la corretta elettrostatica che ce l'avevo in remoto, che comandava il padre, praticamente ce l'avevo in remoto, e il temporale che ha fatto l'altro giorno, tipo 10 giorni fa, è entrato una scarica elettrostatica, mi ha fottuto il ricevitore, e quindi mi sono messo, anche se tutta tecnologia SMD, mi sono messo a ripararla, e l'ho finita adesso, e ti posso dire che gli ho dedicato buone 3-4-5 ore a sera finché l'ho provato. Per tante sere ci saranno una cinquantina di ore, ci saranno una 30-40-50 ore sopra, immaginati un po'. Ma me lo posso immaginare, me era successo anche a me in un effetto, me l'avevo mandato su e mi sono andato via, ma lì era medicina, mi aveva detto che era partito sempre nel ricevitore, i segnali mi arrivavano 3-4 centesimi in meno rispetto a prima, una specie di, non so se era una resistenza o un diodo, comunque sia proprio lì vicino dove c'è proprio l'ingresso dell'antenna, forse una protezione. Sì, quello lì però è più semplice, quando è così, sensibilità e un diodo parte e via, invece in questo caso qua è proprio partito il punto, completamente fischiava, accendevi, però sentite fare e fischiava tutto, ok? scavo lì giorni e giorni e giorni quando mi punto su una cosa. Aspettina. Vabbè, ascolta, mettila così, hai salvato la radio e hai una soddisfazione personale, sei stato bravo e la radio la usi. Perché, diciamocelo, di là ti piange il cuore se devi dismetterla, quindi va benissimo averla riparata, poi avresti fatto bene come hai fatto per ordinarti la scheda. Quanto molto eventualmente la stai ripagando. No, però tanto la trasformata in aspetta, quattro trasformati in euro e a 57 euro più 40 dollari di spedizione, quindi diciamo che intorno alle 90 euro mi veniva la scheda a casa, quindi andava anche bene. Però un po' tanto, perché una volta arrivata la scheda tu immaginati, non so se hai visto come dentro, tutti i trigger, aspetta che abbasso qua, perché tutti i trigger, il trimerino che ci sono, andava tutta quanta allineata la radio, chissà quanti giornate ci avrei perso, e quindi meglio così, guarda la fine. Però adesso io ho rimasto, gli ho chiesto di farmi il prezzo per la spedizione, adesso io gli scrivo e gli chiedo di annullare la transazione, perché per me la spedizione mi sembra un po' eccessiva, una balla del genere, non ci devono essere problemi, questo c'ha 4.000 feedback, mi sembra, quindi è uno più roba di giro, non credo che abbia problemi ad annullarla. Non credo che abbia interesse a rischiarsi in quanto tuo acquirente, lui non potendoti lasciare un feedback negativo, se non venissi incontro accettando una condizione del genere, quella scheda arriva, guarda caso quando arriva potrebbe essere difettosa, se questo è un feedback negativo non gli conviene, accetterà tutto. Ma sì, anche perché poi quella arriva che senza problema, tu considera che io comunque da quando mi arrivo il difetto se la trovo, me la compro e poi mi riparo questa, poi se non la riparo, perché è difficile trovarla. È vero, non so quanto stavo cercata questa cosa. Tu consiglia che alla fine, credo, quando l'ho trovato oggi, infatti come l'ho visto immediatamente io l'ho acquistato, tu non ci pensi, capito? La blocco e via. Non è semplice trovarla, è qualcuno che ha una radio che l'ha smantellata e la sta volendo affitti, se è difficile trovarla. Era una di quelle schede che ti ho mandato io via mail o un'altra la scheda? La scheda RF, sai qual è? Quella che trovi quando togli il coperchio, prendi la radio, la capotti, quando togli il coperchio di sotto ci sono due schede, una è la scheda RF e l'altra è la scheda IF. La scheda RF forse è quella un po' più grande, dove c'è quel coperchio sopra in alluminio e con le quattro viti che lì ci sono tutte le bobine e tutto quanto, per cui va a collegarci sulla scheda IF, non so se mi hai capito. Certo, è quella che c'è il coperchio in alluminio aggiuntivo. Yes, affermativo, proprio quella lì. Dal VR7 PL, sotto il coperchio. Sì, di sotto il coperchio, quindi il problema è che quando la smonti la scheda la giri completamente, no? La giri difetterà. Tutta lì sotto e a vederla non c'era niente, quando l'ha smontata sotto qualcosa c'era di difetto e quindi niente, era quello il difetto, dai. Insomma, altro il problema, tu non puoi trovarlo, è ammazzato per trovarlo, però alla fine una volta fatto, la soddisfazione è sempre grande. Avanti Gianlu, scusa, insomma, voi non mi sentite. Perché sono qua nella zona letto, infatti c'è un baracchinetto piccolino, ma già si dovrebbe sentire, io lo sento bene comunque, Alessandro lo sento benissimo, arriva bene, ma comunque come dice Alessandro appunto è una soddisfazione personale, che non è da tutti i giorni, specialmente anche quando uno, adesso io non so la tua preparazione, se le fai comunque sia, se ti azzardi a mettere le mani queste cose qua, vuol dire che già hai la competenza e anche la teoria, comunque sia. E beh, non è da tutti i giorni, ripeto, a questi punti qua, quante volte io ho mandato la roba su fuori, per carità, guarda, mesi, moratisa che dopo si di fuori, le fanno quando vogliono loro. Una volta una radio 6 mesi erano tenuta. 6 mesi, ma non tornata glielo avevo rimandata perché non aveva un momento di difetto. Lo so, il problema è quello che quando la spedisci in un certo un sacco di tempo, ma adesso di meno è quello. arrivato a queste conclusioni, sì, ne avrei fatto i tentativi, diciamo, a dubbio se magari che non potevano inciampare, se non da qua, ma quella è tutta esperienza che maturi, con il tempo, ci mancherebbe, e nonostante comunque sia, l'attrezzatura che c'è oggi, tanto vuol dire tantissimo, oltre a sapere dove devi intervenire, interagire, mettere le mani e così via. Oggi con questi filoscopi, come hai detto tu, poc'anzi con le macchine ogni giorno, prima mettevi le mani sui motori e carrozza e candele, ti vedi dietro e riusciva a fare, va, attacca una spina, attacca il computer e ti dice tutto un movimento, dove si è interrotta la situazione, ma intervieni e così è quello lì. Lo so. Oggi su queste cose sarebbe sempre più complicato, infatti è sempre quasi più arduo riparare questa roba qua, noi piano piano, anzi io lo faccio per hobby, perché mi diverte, la verità mi rilassa, quindi una volta noi vengo qua, c'è una piccola stazioncina, proprio piccola, sono riuscito a rubarmi lo spazio. Quindi c'è un banchettino, proprio piccolo sommergibile, un buco, però mi chiudo dentro e riesco a lavorare, a fare tutte le cose tranquille, lasciare la radio aperta e potermi organizzare in piccolo, però dopo tanto sono riuscito a farlo. Ok, avanti, sa. E avere l'angolino per poter lavorare è una cosa importante. Ascolta, chiede Gianluca, ma facciamo una prova o un FM in banda per vedere se riesco a tirarlo fuori? Sì, c'è un FM Gianluca. Qua negativo, qua sono le bande laterali, tranne che l'FM. Questa radio qua l'hanno fatta senza FM. Prova allora, che magari ti ascolta Sandro, prova andare in banda laterale, in USB. Allora andiamo a USB, fate qualche passaggio, così vi sento. Ok. Mi fanno laterali su 27.075. Attenzione, iniziamo con Sandro. Attenzione Sandro, se mi ascolti. Roger, sì signore, confermo. Allora. Prova. 1, 2, 3. Sì, perfettamente centrato, non ho dovuto toccare assolutamente niente. Dimmi solo se io devo toccare l'amplificazione del microfono, perché potrebbe dare fastidio. E vediamo se riusciamo a sentire Gianluca, va? Ma è tranquillo, anche io da parte mia, sto cercando la mia ascolta, ma molto probabilmente Fabrizio sì, al 100% anche io ho commutato N1 in Santiago Bravo, la frequenza è 27.075, anche se non la frequenziva, su quel canale 10, questo è uno Stalker 9 con il suo microfono normale, purtroppo sto andando in tutta tranquillità, diciamo, con la potenza del solo paracchino qua, perché mi trovo in zona, diciamo, così letto, è una radietta che ho messo qua giusto per qualche volta che ascolto durante la notte o la mattina presto, quando rientro dal lavoro, che sento gli amici camionisti, così ci scambiamo qualche saluto prima di mettermi a letto, quando faccio, diciamo così, la notte. Allora dai, io ripeto, ho centrato benissimo al 100% tutte e due senza toccare il clarifer. Avanti Fabrizio, che fa girare dopo per Sandro. Ok, anch'io ti ascolto bene. Ti ho dovuto centrare un pochettino con il nostro microfono qui in sovraccolto, si è spostato un pochettino di 0,15 kHz, si è spostato, quindi pochissimo, però ti ho centrato senza problemi, io non ho proprio, forse anche Sandro, vediamo un attimino Sandro, avanti Sandro, se ascolti Gianluca. Allora, devo dire che sì, lo sento, sono riuscito a sentire abbastanza bene il passaggio, benché proprio ultra basso senza segnale, e adesso provvederò a mettermi in cuffie, così che effettivamente riesco a sentirlo, quindi datemi il tempo un secondo di attrezzare una cuffietta, visto che con lo speaker riuscivo a sentirlo, però ho dovuto spostare un po' l'orecchio, a differenza di prima che non lo sentivo proprio, quindi cuffie, dovrei riuscire ad avere un po' più di sensibilità. Qualche secondo per me. Esatto. abbastanza. Allora sì, ripeto, qua si potrebbe migliorare un po' la situazione, giusto per avere un po' di spintarella magari, però dovrei sostituire l'alimentatore, magari piazzandoci appunto anche un piccolo lineareto di quelli transistorizzati. Devo procurare un lineareto di questi piccoletti qua, questi che ti danno anche una cinquantina di watt, 40 watt, e vedrai se, perché questo qui non è stato, almeno è stato dato tranquillamente, ma già si vede che è una radio che non è stata mai quasi mai aperta, oppure non è stato mai intervenuti, diciamo così, a fare, quindi dai proprio i suoi watt, dovrebbe essere intorno al 7, forse 8 watt dovrebbe dare questo baracchinetto. E anche un microfono preamplificato non farebbe male. Sì, in effetti magari ti farebbe comodo anche un Roger Beep di fine trasmissione, perché ho sentito tutto alla fine il microfono preamplificato, poi sei sparito, quindi ho dovuto dedurre che hai terminato. No, comunque ho sentito bene. Vai Fabrizio. No, oh, sì, anche io, vabbè, io non ho problemi, anzi ho sentito meglio in banda, senza problemi, allora sto regolando qua, ok, niente, tutto a posto, l'importante è ascoltarci, è tutto, se mi faccio altri 5 minuti di chiacchiere e poi me ne vado dentro, vai, visto che oggi è stata produttiva la giornata, mi guardo 10 minuti di televisione e poi me ne vado in lato domani mattina, non so cosa fare, dovrei essere libero e non so se andare a lavorare, perché devo dare 11, abbiamo un capo di riunione che viene messa tipo da fuori, mi hanno messo in mezzo, però forse li brucio, cacchio, un gruppo che abbiamo formato di lavoro, ma non ne ho voglia, ero libero, capito, ero un po' di giorni liberi, 2-3 giorni liberi mi sono preso e la verità sono andato stamane al lavoro e ho chiamato il collega, gli ho detto ascolta, ma anche ora siamo alle 11, sta alle 11 domani, che mi chiedo, fanculo, ero libero, sono sceso oggi, ho sbagliato data, immaginati la fretta che mi canta. Scusa, dopo che ti passi 5 ore a notte sull'8.50, lavoro di domani mattina, un pochino stranito, sei giustificato, dai. Sì, lo so, però io ho con le date, che era il 19, però ero convinto che era di mercoledì, capito? E quindi mi ha ingannato. Guardando il calendario, ho detto, vabbè, allora mercoledì, vediamo se ce la faccio. E quindi era mercoledì 19, invece era mercoledì 18, quindi un po' infatti c'ho l'orologio, mi ha avanti di un giorno e mi ha fregato. Basta, riprendi giallo. Come il mio, questi orologi meccanici li devi, secondo il mese che capita, al 30-31 ti varia del giorno, ti varia. Non è come il telefonino. Va bene. Io invece Fabri, visto che stiamo chiacchierando di queste radio che tu fai così, io ho un Ranger, l'IRC 2950, e ti dico che sono veramente affezionato perché mi trovo bene, perché è veramente una radio che è per il contenuto e per la, comunque sia, un CB anche professionale, se vogliamo chiamare così, tu conosci benissimo, è un 2632 in continuo, anche se c'ha il VFO che fa i scattini, no, però ha tutta la frequenza, puoi mettere il cane e queste cose qua, però mi piace veramente perché c'ha una ricezione bellissima, specialmente quando va in banda, non lo devi toccare quasi niente, se gli altri corrispondenti sono, diciamo così, hanno radio buone o comunque sia che a quei livelli, ma anche più alti, no? Riesco a sintonizzare quasi tutti, lasciando quasi le stesse tarature, i stessi movimenti della sintonia. Però l'unica cosa che c'è questo cavo di radio, che si è inserito questo cavolo di beep nel display e non riesco a disinserirlo dal tasto, capito? Quando tappo il tasto fa un'altra funzione dove c'è scritto Roger Beep e rimane sempre fisso questo cavolo di cosa. Ma insomma, sicuramente c'era questa batteria, l'ho cambiato la batterietta che c'ha dentro quella con i piedini, la batteria delle memorie. Nulla da fare, sempre lo stesso. Prova a fargli un reset generale della radio, magari si riprende, prova a fargli un reset. Sono molto come si fa, però comunque cercato il manuale, dovrebbe tornare a posto. Quello lì che non c'ho, perché mi è stata data senza il manuale, adesso dovrei fare una ricerca ad internet e vedere un pochino il manuale, se c'è qualcosa che parla appunto delle istruzioni, vedere un poco, ma no, invece che io penso che nel VHF, in quelle cose lì, avevo visto che c'è il pallino, quello che entri, tipo lo stecchino, no? Che puoi mettere lo stecchino dentro, allora fai il reset, ma in questo qui no, che ricordo io, a meno che non voglia essere fatto con qualche manovra, ma dai tasti, magari lì che c'è la tastiera davanti. Guarda, devi, adesso io non so ovviamente come, ma è semplice, devi cercare un cavo, è un problema, devi praticamente, non so i tasti, ma tenere premuti due tasti e riaccendere la radio, lei torna a posto. Ho capito, due tasti allora, ma chissà quali sono, devo comunque vedere un poco. Avanti, Sandro. Sì, probabilmente ci sarà qualche combinazione di tasti per fare qualche reset, però non ho ben capito, ma ti rimane Roger Beep inserito, fisso? Sì, mi rimane Roger Beep inserito. Praticamente sì, adesso l'avuto la radio, no, lo devo disinserire, cosa faccio? Vado sul tappino e lo disinserisco, e invece non disinserisce, e rimane la scritta nel display, Roger Beep, capito? E in più rimane proprio la funzione, perché funziona proprio, Roger Beep funziona. Ecco, quindi sul display rimane sempre la scritta Roger Beep, invece tu premi il pulsante, no, aspetta, perché giustamente devi capire, non ti sento fortissimo. Quindi tu dai il consenso per disinserirlo, sul display scompare la scritta Roger Beep, ma rimane comunque, o il contrario, scompare Roger Beep, ma sul display rimane sempre la scritta. No, no, negativo, praticamente sia che io inserisco o disinserisco dal tastino, il Roger Beep rimane inserito sia come funzione acustica che come scritta sul display, non va via, capito, non si spegne. Ah, ecco, non si spegne proprio, ci rimane sempre inserito. Naturalmente il pulsante, hai verificato se è funzionante il pulsante? Sandro, il pulsante lo sento, e quando schiaccio fa anche il pipino, no? Fa quel pip, la musica fa facciamo c'ha il tono, proprio poche parole, il tono è come una tastiera di un telefono, no? Se fa il pipì, capito? E lo fa, il tono lo fa, dopo che se funziona, se l'impulso lo manda, non lo manda da dentro, quello no, quello non lo posso sapere. Ecco, quindi il tipo di apparato, quando tu tocchi i tasti, ti conferma la pressione del pulsante con un tono che indica che l'hai premuto, ma non dà il consenso al cambio della funzione che gli hai richiesto. Sì, chissà che cosa strana. Ehi, proprio ieri, magari poi te la mando Fabri, che giusto per il titolo informativo, hanno fatto un kit per la sostituzione dei finali del Ranger del 2950, fighissimo, davvero davvero bello, è tutto un blocco che si applica dietro, rimuovi il finale e il driver originale, fai i ponticelli con due cavetti, l'alimentazione e monti questo bellissimo gruppo con degli RF 75, adesso non ricordo bene, e in pratica ti dà una portante muta di 20 watt e poi quando vai modulato ti arriva a picchi di 75-80 watt, fighissimo, e non costa neanche tanto. Ho capito, manda, ma così me la guardo, riprendi, sai, io faccio un attimino di bianco e anzi faccio dai di ascolto e faccio in QRT, diciamo, faccio un ascolto 5 minuti che sto sistemando e come ne va la nina. Caparoggio, dai, mi sa che ne approfittiamo a fare il giro di saluti, perché anch'io qua devo finire di sistemare una cosa su un portatile, spegnere due cose, fare un pilino d'ordine, se no non mi rimattiamo a 1050, deve passare da qua, e poi mi sgrida. E niente, verifico anche un attimo la lista. Se trovo il link ti mando un attimo il link anche di quella geggio. Ciao Roger, sì signore, dai, ciao Gianluca, mi approfitto anch'io. 7351 circolari, Gianluca, Fabrizio, gli ascoltoni in radio, e Sandro Conan da questa, attualmente facendo prove di modulazione con regolare apparato omologato, presidente George, in uniform Sierra Bravo su 27075, vai, radio onda stereo. Ciao Roger, e partiamo in QRT. Vai Gianluca, ascolto, aspetta un attimo, facciamo questo giro di saluti circolari fra di noi e poi Nina. K, ok, contraccambio 751, anche a te, buon correttivo, tutto per domani, buon trapasso, avremo modo magari di risentirci, magari scambiare ancora qualche opinione, qualche consiglio, comunque sia sempre qualche dettaglio, è sempre utile sapere qualche cosettina in più anche a livello piccolo informativo, comunque sia, molte volte potrebbe essere anche una stupidata, tocca lì e magari sarebbe risolto il problema, in certi casi comunque. Anche a te Fabri, di nuovo, grazie della conversazione, mi ha fatto piacere questo queste opere, è sempre ripeto, cose fondamentali, dai, anche per la radio, per chi solo comunica, ma anche chi non interviene direttamente sulle... A me personalmente fa piacere discutere di queste cose tecniche, dalle radio, antenne, comunque sia, quello che appunto fa andare avanti la radio, ecco. Di nuovo, buon QSO, buon riposo, buon tutto per domani a tutti e due. Ciao Sandro, ciao Fabrizio e buonanotte, al fresco. Ok, da questa parte lo stesso vi contraccambio i saluti e buona notte a tutti e due. Notte ragazzi, ciao.